In quest'ultima settimana di Quaresima non ci sono eventi specifici, appuntamenti riservati alla figura di Pio X nell'anno centenario della sua morte, proprio perché ci stiamo avvicinando alle celebrazioni pasquali e dunque appuntamenti ufficiali non ce ne sono, ma vi ricordiamo alcune date già dal prossimo mese di maggio, oltre ad alcune iniziative generali. Innanzitutto la data della celebrazione ufficiale per il centenario, spostata come ormai sapete al 23 di agosto, sabato sera, con il cardinale segretario di Stato Monsignor Parolin, inviato del Papa, e rappresenterà appunto tutta la Chiesa nel celebrare questo Papa sepolto in San Pietro. La curiosità è che la sua tomba è nel secondo altare laterale della navata di sinistra di San Pietro. Di fronte a lui c'è Giovanni Paolo II, che tra pochi giorni sarà a sua volta proclamato santo, quindi un legame importante, e in fianco a Pio X c'è Giovanni XXIII, quindi davvero entrando in San Pietro e da una parte e dall'altra siamo circondati e abbracciati da tre importanti pontefici dell'ultimo secolo. Ricordiamo che c'è l'indulgenza plenaria voluta da Papa Francesco proprio per questo centenario, per tutti i fedeli che alle condizioni consuete per l'indulgenza plenaria visitino le chiese di Riese, Tombolo, Salzano e la cattedrale di Treviso. Indulgenza che sarà concessa anche in occasione della celebrazione del 23 di agosto. Ricordiamo a tal proposito i luoghi di Pio X, che sono oltre ai già citati, sono anche culla di cultura e di arte, oltre che di storia e di testimonianza di Giuseppe Sarto. Riese, con la sua casa natale, il santuario delle Cendrole, la chiesa parrocchiale. Asolo, dove Giuseppe ricevette la cresima nel 1845 e fu consacrato, entrò nello stato clericale nel 1851. Il Monte Grappa, con la celebre salita del 4 agosto 1901. A Padova il seminario vescovile, dove Giuseppe Sarto studiò con una borsa di studio dal 1850 al 1858, anno in cui poi ricevette l'ordinazione sacerdotale nel Duomo di Castelfranco. A Tombolo, dove svolse il servizio di cappellano dal 58 al 67, a Salzano, dove fu parroco dal 1867 al 75 e dove scrisse il catechismo per i fanciulli, che poi divenne il nucleo del catechismo per tutta la Chiesa, che poi fu proposto e utilizzato per tanti anni, fino praticamente al Concilio Vaticano II. A Treviso, ovviamente la cattedrale, ma anche il seminario vescovile, dove Pio X appunto viene ricordato con diversi luoghi e opere d'arte. Ancora la città di Mantova, ovviamente uscendo dal Veneto, dove fu vescovo dall'84 al 93, Venezia, dove fu patriarca dal 1894 fino al 1903, e poi ovviamente Roma, dove abbiamo già ricordato la sepoltura. A Venezia c'è un comitato, il Centro Culturale Laguna di Venezia, che ha promosso una serie di interessanti appuntamenti culturali, praticamente uno al mese. L'ultimo si è svolto questo sabato 5 aprile all'Abbazia di San Giorgio Maggiore, sulla riforma della musica sacra. Il prossimo appuntamento sarà il 10 maggio, non in un luogo sacro, ma nella sede del Consiglio regionale, Palazzo Ferrofini. Alle 17 si parlerà degli aspetti economici e sociali del patriarcato, e quindi 9 anni a Venezia, del pontificato di San Pio X. Il relatore sarà il professor Georg Meyer, coordinatore dei corsi di laurea e laurea magistrale in scienze internazionali e diplomatiche dell'Università di Trieste, sul tema società ed economia nella Venezia dei tempi del patriarca Giuseppe Sarto. Interverranno anche rappresentanti del Banco San Marco, la sezione veneziana della CISL, don Alessio Albertini, segretario della Commissione per lo Sport della Diocesi di Milano, per raccontare dello sport nel pensiero di San Pio X. Sotto il suo pontificato, durante il suo pontificato, ci furono le prime esperienze delle Olimpiadi e lui fu anche un appassionato praticante di attività sportiva. Per uno che era nato in campagna, chiaramente spostarsi a piedi o anche correre era una cosa piuttosto naturale. Ricordiamo le iniziative della parrocchia di Salzano, in particolare con il concorso di pittura, ancora circa un mese, entro il 4 maggio, per consegnare i lavori. L'opera vincitrice sarà collocata nella chiesa parrocchiale di Salzano, tutte le altre saranno messe in vendita, il ricavato andrà a sostenere un'iniziativa della Caritas locale. Tutti i dettagli su museosanpiox.it. Poi anche nel corso dell'estate ci saranno diverse iniziative. Nel mese di maggio, ad esempio, la Fondazione San Pio X ospiterà il raduno triveneto dell'Unità a Riese. Ci sarà anche il concerto del coro filarmonico trevigiano Sante Zanon con l'orchestra polifonica, con brani tratti da una messa scritta proprio da Sante Zanon nel 1934 in onore di San Pio X. Nel 34 ricorrevano i 20 anni dalla morte appunto del pontefice, e via via fino ad agosto, ma anche a settembre e ottobre ci saranno diverse iniziative da ricordare. A settembre il pellegrinaggio della diocesi di Treviso dall'8 al 10, con ovviamente la visita, la preghiera alla tomba e l'udienza con Papa Francesco.